9 in punto, la versione di Oscar. Oh, buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 20 di marzo, auguri ad Alessandra, questo è il nome del festeggiato nel calendario liturgico. Oggi una puntata in cui chiediamo soprattutto a voi ascoltatori, un po' di tempo che siamo un po' troppo avari nel darvi spazio per via degli ospiti, della pubblicità, delle interruzioni, e quindi oggi il tema è quello che ho lanciato nella trasmissione, era il sondaggio pubblicato ieri da Repubblica, un sondaggio che veniva commentato da Ivo Diamanti e aveva un risultato abbastanza sorprendente, però in linea con quanto tutti i sondaggi confermano da mesi in maniera crescente, da che il governo guidato da Mario Monti i sondaggi confermano appunto il grande credito, il grande sostegno popolare, la grande fiducia che l'operazione di riacquisizione di credibilità sui mercati e nelle fore internazionali, a Washington come a Berlino, a Bruxelles come a Francoforte, il governo ha compiuto agli occhi del mondo. Si è visto anche nella diminuzione degli spread, stabilmente oramai intorno a quota 280 rispetto a 560-70 che era il massimo, anche se il più degli spread diminuiti si deve alle aste di liquidità straordinaria di Francoforte, lo diciamo spesso, quasi tutti i giorni, ma la credibilità del governo se l'è ripresa. E ieri il Repubblica ha fatto un sondaggio politico nel quale ha chiesto agli italiani che cosa pensavano di una ipotetica lista guidata dal Presidente del Consiglio alle elezioni. Sapete che il Presidente del Consiglio Mario Monti si ritrae sempre da questa eventualità, ancora al convegno del Centro Studi di Confindustria che si è tenuto venerdì e sabato a Milano, dove Monti è stato accolto da una standing ovation sia quando è entrato in sala e soprattutto quando ha terminato il suo intervento l'indomani, sabato mattina. Anche in quell'occasione il Presidente del Consiglio ha detto: ma noi siamo stati chiamati per un'incombenza temporanea, per l'inadeguatezza della politica a dare le risposte che l'Europa e i mercati chiedevano, ma sia ben chiaro, lo ripete sempre, il nostro è un compito a tempo. Molti iniziano a interrogarsi su quanto sia anche un vezzo coerente a uno stile personale molto diverso da quello di Silvio Berlusconi, con le sue assolutamente intollerabili eccessi, ma anche molto diverso da quel protagonismo gonfio di sé che spesso sentiamo sulla voce dei leader politici, non so, per intenderci quello di Massimo D'Alema, per intenderci. Molti si interrogano se sia un vezzo o meno questo allontanare il calice di un futuro politico dalle proprie labbra, quello di Mario Monti, ma bisogna rendere atto che Mario Monti replica sempre questa formula. Ciò malgrado, ieri il sondaggio di Repubblica portava a un risultato che ha del clamoroso. Allora, abbiamo deciso di chiedere a voi di chiamare l'800240024 per dirci se siete della stessa idea, se vorreste, rispetto ai limiti di cui siete convinti o a quelli che vedete aggiungersi delle precedenti due coalizioni, di quella che ha governato il centrodestra e di quella di centrosinistra, se preferireste, rispetto a quei limiti, che fosse Mario Monti a continuare il suo impegno a dar vita a una formazione politica e a farsi contare. E devo dire, qui di cose nuove su cui riflettere ce n'è ogni giorno, basta vedere l'ondata di nuove indagini dalle raffiche di avvisi di garanzia ai Consiglio regionale lombardo e all'ipotesi di tangenti Lega, PDL, PdL all'inchiesta barese che investe il sindaco progressista Emiliano, a quella Emilia Romagna che lambisce fin qui integerrimo Errani per un'ipotesi di 1 milione di euro dato a una cooperativa guidata dal fratello 7 anni fa impegnata nella realizzazione di uno stabilimento. Ce n'è per così dire ogni giorno alle ipotesi sui porti fuori Roma e in Liguria che hanno portato all'arresto di Bellavista Caltagirone e all'ipotesi che dietro ci sia Scajola, insomma di riproposizioni di un basso costume della vecchia politica ce ne conferma ogni giorno. Allora, prima di sentire però la vostra opinione, abbiamo chiesto per 10 minuti, un quarto d'ora di tenerci compagnia spiegando a noi che cosa a propria volta ha pensato di questo sondaggio, del suo significato, che dava a un'ipotetica lista Monta il 24,4% del sostegno degli italiani rispetto al 19,8% del PdL e al 18,5% del PD. Il vice direttore di Repubblica Massimo Giannini, che è qui con noi e che ringrazio. Buongiorno e grazie. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, ma Repubblica non è contemporaneamente il giornale che negli ultimi tempi fa degli energici richiami a che poi la politica deve tornare in campo alle elezioni? Il sondaggio fotografa quello che pensano gli italiani, o è anche qualche cosa di più, cioè inizia a essere una presa d'atto di questa delusione che la vecchia politica continua in qualche misura, sia pure nel rispetto dell'opinione di ciascuno, ma a proporci ogni giorno? Tu che dici? Ma io penso che le due cose stiano insieme, lo dicevi tu prima nella tua introduzione. È un dato di fatto che Monti si sta conquistando sul campo la fiducia degli italiani, vuoi perché rappresenta una così netta, marcata ed evidente discontinuità rispetto al governo Berlusconi che nei fatti è riuscito a combinare davvero ben poco. Vuoi perché ha di suo una linea appunto di sobrietà e anche di azione politica che sta portando dei risultati. Poi si può condividere o meno il contenuto della manovra economica, noi non l'abbiamo condiviso fino in fondo perché abbiamo sempre detto che è carente dal punto di vista dell'equità. Si può considerare mezzo vuoto il bicchiere delle liberalizzazioni perché si poteva fare molto di più, mostrando un po' più di coraggio in settori nevralgici come l'energia, le banche o le assicurazioni. Adesso vediamo come andrà la riforma del mercato del lavoro, ma anche lì, benché io credo non si arriverà ad una riscrittura totale del patto che regge appunto il nostro sistema giuslavoristico, però dei passi avanti ci saranno. Insomma, da un lato la figura personale di Monti, dall'altro lato l'azione pratica del governo stanno effettivamente producendo dei risultati nell'opinione pubblica e l'opinione pubblica li vede e li apprezza. Dall'altro lato c'è una politica che, a dispetto degli appelli di Giorgio Napolitano a rinnovarsi e a riformarsi, continua invece a dimostrare di non avere quella forza da un lato e dall'altro lato, come dicevi tu prima, nel frattempo di perpetuare i peggiori vizi che ricordavamo dai tempi della Prima Repubblica. Ci sono un'ondata di inchieste, adesso naturalmente con il solito caveat del garantismo, cerchiamo di vedere, di capire. Però la sensazione che stia riemergendo con forza una questione morale in Italia c'è, e allora tutto questo non può non far pensare che rispetto alla vecchia politica, se questa è la vecchia politica, allora teniamoci i tecnici. Però ecco, è una situazione, adesso parlo dal punto di vista personale e del giornale, è una situazione che da un lato si capisce, per alcuni versi si giustifica, ma per altri versi un po' inquieta, perché fino a che punto possiamo immaginare che in Italia la politica continui a regredire sempre di più e a lasciare il campo ad una, si dice in gergo, tecnocrazia, poi in realtà il governo Monti sta facendo politica a tutto campo, però di fatto una classe, un'elite di non eletti effettivamente a lungo andare può rappresentare un problema. Fermo restando che io non credo che una lista Monti prenderebbe quei livelli di voto che gli attribuisce il Votiamanti, perché un conto è farle a bocce ferme queste valutazioni, un conto è andare in campagna elettorale, lì si innescano meccanismi molto diversi. però è un dato di fatto che oggi il partito dei tecnici gode molta più fiducia dei partiti in senso tradizionale, e questo è un elemento, ripeto, che da un lato si capisce, dall'altro lato però non può non preoccuparci. Se invece guardiamo l'evoluzione del sondaggio che ogni settimana Repubblica propone, e che era proposto anche a fianco di questa ricerca interpretativa sul consenso ipotetico di una lista di Mario Monti, e cioè il sondaggio che fotografa l'evoluzione del sostegno politico degli italiani ai diversi partiti nella loro attuale configurazione di offerta politica, se andiamo a vedere il sondaggio pubblicato ieri sul vostro giornale, beh, vediamo che il dato che è diventato sempre più evidente dall'ultima parte del declino del governo Berlusconi risulta puntualmente confermato ancora una volta, e cioè il sondaggio proposto ieri da Repubblica attribuiva al Popolo della Libertà un 23,5% stima di voto. Questo sondaggio è fatto chiedendo agli italiani chi votereste oggi se i partiti fossero quelli di oggi, no? Diverso da quello che avevamo detto prima, 23,5% al Popolo della Libertà rispetto a un Partito Democratico che resta solidamente in testa, ha perso rispetto ai massimi del settembre del 2011 che era il 29,5, però resta al 27,2 rispetto al 23,5% del Popolo della Libertà, una Lega Nord che in realtà resta di poco sfuori al 10,1, e poi tornando invece a guardare nel centro-sinistra, un'Italia dei Valori attestata solidamente anch'essa all'8,5%, la sinistra Ecologia e Libertà, chiamiamola la sinistra antagonista, 5,9%, Movimento 5 Stelle 5,2%, altri partiti 6%, con un'Unione di Centro, tutto ciò che c'è oggi in piedi nel terzo polo, al 9,8%, FLI di poco inferiore al 4%. In questa articolazione, quella dell'offerta tradizionale, Giannini, e con questa tendenza che è abbastanza consolidata di un PD che resta di diversi punti sopra la PDL e che può contare ipoteticamente su alleati la cui somma sopravanza ulteriormente il vantaggio che già da solo può contare nei confronti del PDL. Ecco, questo scenario a bocce ferme, che è uno scenario, ripeto, che si va consolidando nei mesi, è uno scenario che ti fa indurre che ci sarà davvero quell'incentivo a un accordo di legge elettorale proporzionale come abbiamo scritto prima che le cose si complicassero di nuovo sulla RAI, come è avvenuto in questi giorni sulle ipotesi di correzioni normative sulla concussione volute da Berlusconi, oppure è uno scenario di fronte al quale alla fine prevarrà ancora una volta l'ipotesi di andare a votare con la vecchia legge, perché è ovvio che il criterio della rappresentanza cambia un po' l'effetto ma anche l'offerta politica di chi davvero poi prese le misure dopo la primavera e dopo le amministrative, un po' con il responso degli elettori, e sarà molto a sorpresa se queste sono le tendenze elettorali, e dall'altra con la tenuta del governo Monti dovrà decidere come se mettere mano a un cambio del criterio di rappresentanza e come costruire le alleanze PDL con chi e PD con chi. Tu che ti aspetti? Ma io penso che anche qui lo dicevi bene, l'andamento che i sondaggi fotografano potrebbe rimarcare la tendenza, direi quasi non inerziale ma insomma necessitata da parte dei partiti di arrivare ad un nuovo accordo sulla legge elettorale, che potrebbe essere appunto anche qui modello tedesco più o meno, come già si parla sull'articolo 18, anche sulla legge elettorale ogni tanto riviene fuori con alcuni correttivi, c'è chi dice un pezzo di spagnolo messo dentro, ma insomma diciamo un modello proporzionale che potrebbe far comodo a molti. Io però credo in realtà che i nodi da sciogliere che riguardano appunto la RAI, la giustizia e anche poi tutto quello che ancora ci sarà necessità di fare dal punto di vista della politica economica, perché non credo che nel momento in cui avremmo fatto un accordo sulla riforma del lavoro saremmo a posto anche rispetto all'Europa. Con questi tassi di crescita, viceversa, io credo che anche dal punto di vista del risanamento noi saremo costretti a fare degli ulteriori passi che potranno essere molto sgraditi all'opinione pubblica. Ecco, stanti tutti questi problemi, io vedo difficile onestamente la possibilità che i partiti riescano a trovare un accordo, per cui sono più incline a pensare che alla fine, e questa è una iattura, ma purtroppo ci siamo abituati nel corso di questi ultimi anni, noi torneremo a votare, temo, con la legge elettorale vigente, il famigerato Porcellum, e appunto sarà una iattura, però faccio fatica a immaginare che il trio ABC riesca a produrre un accordo virtuoso dal punto di vista elettorale, anche se stanno lavorando, dicono di avere in mano delle ipotesi più concrete di quanto non fossero quelle dei mesi scorsi, però francamente sono pessimista. L'ultima questione che ti pongo è relativa a un aspetto che è altrettanto, forse il più rilevante nello spiegare poi il consenso che nei sondaggi va a monte. Intendiamoci, il gradimento del governo è un gradimento che ha perso rispetto ai mesi iniziali, perché nel novembre, a fine novembre, era un gradimento intorno al 78%, anzi superava il 78% tra gli italiani. Poi l'impatto delle misure assunte, il decreto Salva Italia e aver toccato, averci almeno provato a toccare lobby e corporazioni prima che poi in Parlamento un testo sul quale condivido il giudizio di Giannini, già abbastanza deludente all'inizio, quello sulla liberalizzazione, venisse ulteriormente compromesso e malmesso in Parlamento, questo ha provocato delle reazioni, degli aggiustamenti, e tanto è vero che nei mesi tra dicembre e l'inizio di gennaio e la terza settimana di gennaio il gradimento del governo è sceso dal 78,6% al 57,7% e poi è risalito al 61,7%, ma uno degli aspetti che nei sondaggi chiunque li compia rileva sempre è quello che Monti porta a casa poi una percentuale di fiducia personale rispetto in lui più elevata, sia rispetto ai leader di PD e PDL, Alfano e Bersani o Giorgione Berlusconi, sia nei confronti degli altri suoi colleghi di governo, a cominciare da Elsa Fornero e Corrado Passera, perché porta a casa, ingloba nel suo consenso una fetta che altri non riescono invece a convincere, di italiani non convinti di andare a votare. La fetta di italiani che ancora nei sondaggi diversi non riescono a esprimere un'opinione su quale tipo di offerta politica preferiscano è molto elevata, cioè siamo stabilmente intorno al 40%. Ecco, la mia ultima domanda a Massimo Giannini è questa: l'ipotesi tecnica, questo parlare di Monti che deliberatamente fa credito ad Alfano e a Bersani di concessioni con i partiti, evita accuratamente le polemiche, riconosce che lui andrà a casa appena finisce questa legislatura senza alcun problema, e questo parlare, per così dire, privo di ambizione, anche se intellettualmente molto motivato e molto ambizioso, molto consapevole di sé, secondo te l'arma segreta che poi convince gli italiani che altrimenti sono delusi della vecchia politica, ed è qualcosa che contraddistingue solo lui personalmente, oppure è la stessa arma, sia pure nella diversità di percorsi personali, che poi potrebbe caratterizzare una modifica dell'offerta politica alle prossime elezioni, che ne so, con i Montezemolo, con le persone di cui parliamo da anni e che poi ancora non si erano decisi? È una cifra personale irripetibile di Monti o è il segno di quello che arriverà con il nuovo e che non avevamo ancora visto nei vecchi partiti? Sì, propenderei per questa seconda crisi, perché non, ripeto, non credo che Monti si candiderà. Penso che sia sincero quando ripete in ogni occasione pubblica possibile che questo è un governo a termine, un governo di scopo, e che presto tornerà a fare quello che ha sempre fatto, cioè il professore universitario alla sua Bocconi. Io ci credo. Però una cosa è certa, lo dicevamo un po' prima, dopo Monti niente sarà più come prima. Da questo punto di vista il Diamanti scrive una cosa assolutamente giusta quando dice che con Monti passa un nuovo modello del quale la politica in senso stretto non potrà non tenere conto, cioè la competenza, e la sobrietà, diciamo, la tecnica e la padronanza dei temi, tutto quello che almeno in apparenza, perché poi non tutta la politica è screditata, non tutta la politica è impresentabile, però è stato esattamente quello che è mancato nel corso di questi anni, almeno agli occhi dell'opinione pubblica. Quindi in questo senso il passaggio di Monti secondo me marca davvero una cesura, per alcuni versi anche storica, della quale quindi chiunque farà politica, chiunque si candiderà al governo del paese nel 2013 dovrà assolutamente tener conto, sia che si tratti di un politico di professione, e attualmente tra i leader in corsa io non vedo chi possa credibilmente candidarsi, sia che si tratti di un outsider, come appunto potrebbe essere Montezemolo, del quale pure si parla, o non so chi altri, perché poi tra i tecnici, oltre a Monti, come sappiamo, ce ne sono altri che vengono accreditati di forti ambizioni, uno su tutti è Corrado Passera. E quindi credo, ecco, in questo senso concordo con la tua seconda ipotesi, qui c'è proprio un cambio di fase, insomma, e di questo insisto, l'offerta politica in senso generale non potrà non tener conto, perché gli italiani a questo punto possono accettare tutto, ma non credo che sia possibile l'idea di tornare alla politica come l'abbiamo conosciuta fino a, appunto, alle elezioni, alle ultime elezioni. Del resto il dato, anche questo lo dà Diamanti, ma lo hanno dato tanti altri sondaggisti e analisti della politica prima di lui, da Mannheimer a Pagnoncelli, il dato che colpisce di più in questa fase, oltre all'enorme bacino degli indecisi e dell'astensionismo, è quel 4% di indice di fiducia che gli italiani tributano ai partiti tradizionali. Questa è una cosa davvero preoccupante per alcuni versi, e anche, io credo, in qualche misura irreversibile, perché faccio fatica a immaginare di qui a un anno un forte recupero di credibilità dei partiti, soprattutto se, come dicevo prima, non fanno quel minimo sindacale che sarebbero chiamati a fare in un momento di crisi così drammatica, cioè cambiare se stessi. Io sono molto d'accordo con le conclusioni di Massimo Giannini, che ringrazio e saluto. Buon lavoro a Massimo Giannini. La mia opinione, grazie a te. La mia opinione è che alle prossime politiche, in prossimità alle prossime politiche, dopo le amministrative, che considero ci stupiranno molto, vedremo. Io soprattutto credo che scombineranno molto della vecchia offerta politica. A quel punto, chi ha testa politica e vuole continuare a fare politica o deciderà di fare politica, deve pensare a riallineamenti sui contenuti con persone che abbiano volti e leadership credibili rispetto alla non credibilità troppo elevata delle forme precedenti, e soprattutto un disallineamento su scelte concrete, perché io temo che a pensarla in maniera analoga ci sia gente tanto a destra che a sinistra a pensarla in maniera contraria a interventi decisi sulla spesa pubblica e sull'efficienza del settore pubblico, che è la scelta, per chi la pensa come me, prioritaria per rimettere in piedi il paese o farlo morire di asfissia di tasse. La pensano in maniera analoga gente che sta da parti opposte dello schieramento politico, e invece convergono persone che appartengono nella vecchia politica a schieramenti che in teoria si sono combattuti fino alla morte, e se sono morti bisognerà pensarne di nuovi. E a proposito di sondaggi, stiamo commentando quello di ieri pubblicato La Repubblica, in cui si attribuiva al 24% un'ipotetica lista Monti, che resta quindi la svolta nella credibilità, a giudizio largamente prevalente degli italiani. Io devo comunicarvi, alla fine l'abbiamo tenuto aperto per più di 10 giorni, l'esito finale del sondaggio che abbiamo fatto invece tra i nostri ascoltatori, mandandoli al sito della radio www.radio24.it, e molte migliaia di loro hanno risposto, e il problema è che il 74%, lo dico perché non è d'accordo naturalmente il problema, è d'accordo con l'impostazione del conduttore di continuare almeno per un po' ancora con i Doors, con The End e i Doors all'inizio, alla fine della trasmissione, il 74%. L'8% invece non si è dichiarato d'accordo con questa ipotesi, un 18% ha detto, beh sì, ma ogni tanto però bisognerebbe cambiare cambiare musica. Allora, questo 18%, siccome mi ha molto colpito come rilievo, mi indurrà a qualche variazione sul tema e quindi tenteremo di sorprendervi spiegando ogni qualvolta il perché. Ora iniziamo invece con le vostre opinioni. Volete anche voi il partito Monti alle elezioni? Lo votereste al 24%? Credete che da questa stagione del governo emergenziale debba nascere una modifica strutturale con tanto di voto degli italiani rispetto ai vecchi partiti? Cominciamo con Michele che ci chiama da Bergamo. Prego Michele. Buongiorno Giannino. Allora, Mario Monti per me è la svolta epocale, è la terza, la quarta, la quinta repubblica. Mario Monti è la politica che vorrei, perché la politica che vorrei è la politica dell'onestà. Gli sono talmente grato che ho già commissionato a mio suocero, un artista in pensione, un cartello modello via stradale, no? Da piantare nel mio giardino, dedicato a lui. Mario Monti, salvatore della patria. Va bene, idea chiara e molto netta. Francesca da Roma. Sì, buongiorno. Anch'io devo dire che sono d'accordo con l'ascoltatore precedente che ha parlato, nel senso che io sono un'elettrice PD, ma oggi come oggi farei parte di quel 24% di elettori di un'eventuale lista Monti, perché temo che il 2013 sia troppo vicino per rinnovare veramente i partiti, come diceva Giannini, che pensa sarà un loro obbligo, è vero, però temo che il tempo non sia sufficiente e temo che il 2013 è anche troppo vicino per Monti per operare in modo così incisivo su un paese disastrato come il nostro da tanti punti di vista, e quindi mi augurerei che continuasse il suo operato. Grazie a Francesca. Antonio da Piacenza. Eccomi, io sono l'elettore di centrodestra, delusissimo da Berlusconi. Mi è piaciuto molto di Monti il suo stile sobrio e il fatto che sta lavorando per diminuire l'eccesso di differenza che c'è tra per esempio i grandi burocrati di Stato, tutti coloro che hanno posizioni di privilegio e la gente normale come me, però io non lo ricandiderei perché è già piuttosto anziano e perché mi piacerebbe di più puntare su persone giovani. Per esempio a me piacerebbe candidare una persona che è molto stimata a livello internazionale come Mario Mauro, Presidente del Parlamento Europeo, Vicepresidente. E di Passera che ci dice? E Passera, sì, è una persona che è senz'altro stimabile, però mi sembra un po' troppo con le mani in pasta nel settore bancario. In effetti è, diciamo, una delle obiezioni prioritarie, tanto che il governo è impaniato in questa vicenda di un testo che sono stati i partiti che lo sostengono a infilare nel decreto legge del governo, quello che impedisce la remunerazione alle commissioni bancarie, e il governo, proprio per evitare di sentirsi dire poi dai giornali dell'opinione pubblica e da chi è più critico nei confronti delle banche che è il governo dei banchieri, pur essendo dell'idea che quella norma tecnicamente scritta con i piedi, ne abbiamo parlato con Mussari in questa trasmissione, ha detto, stupendo molto i vertici dell'ABI, ragazzi, però i partiti, prendetela col Parlamento e con i partiti, quindi la cosa del governo dei banchieri porta poi anche a delle conseguenze paradossali, che sia proprio durante la vigenza in carico di questo governo che passa in Parlamento la botta più forte alle banche della storia della Repubblica. Grazie Antonio da Piacenza, sentiamo come la pensa Marco che ci chiama dalla provincia di Alessandria. Prego Marco. Buongiorno, senta, io ho... il mio barbiere mi ha detto speriamo che Monti rimanga 10 anni, e questo per me è significativo perché la dice lunga su quanto la gente che lavora anche e che magari non ascolta sempre Radio 24 abbia idea che finalmente è finita una contrapposizione sterile tra i partiti e che abbiamo gente che ha voglia di occuparsi delle cose vere, e questo per me è importante perché la gente ne aveva bisogno e era un po' stufa di sentire i partiti accapigliarsi per le corna di Berlusconi piuttosto che le amanti o i giudici. Direi che il punto è questo qui, e mi sembra un po' come un professore che è entrato in una prima media e ha zittito tutti, e adesso francamente pensare che questi partiti possano riprendere in mano la vita pubblica la vedo dura. Credo che ci sia da fare un percorso di crescita piuttosto lungo. Va bene, grazie anche a Marco. Sentiamo Fausto da Parma, poi inizio a dire anche un po' come la penso io. Prego Fausto. Sì, buongiorno Giannino, complimenti per la trasmissione. Qua ci stiamo accontentando delle briciole, stile sobrio di Monti, ma è uno stile che dovrebbe avere una persona normale, che avevano gli altri, almeno gli altri politici prima di quella parentesi pazzesca di Berlusconi, ma quella è una parentesi che non merita neanche di essere più ricordata. Ma qua ci stiamo accontentando delle briciole. Chiamiamola politica, parentesi, ma diciamo un'epoca politica che è durata 17 anni, non proprio una parentesi. Parentesi un po' lunga, però voglio dire, qua abbiamo comunque una classe politica che ci ha portato dove siamo arrivati, che adesso sono gli stessi che dovrebbero portarci fuori. Ma quando mai? Questa è gente che va presa, mi lasci il termine, non lasci passata, che non così tanti io, gente che va presa a calci nel sedere a raccogliere pomodori. Questa, non è possibile mantenere ancora tutta questa gente. A me Monti ha allungato 2 anni di lavoro e devo essere contento che ancora lavoro, oltretutto, ma non vedo togliere gli enti inutili, tutti quegli enti inutili che abbiamo, che costano fior di milioni e ci sono ancora tutti. E poi ci abbiamo salvato, abbiamo dato soldi alle banche, io vado in giro a cercare lavoro per una ditta, ma i poveri imprenditori non riescono ad avere soldi e non riescono ad andare avanti. Ha portato solo soldi alle banche e mandato, allungato la vita lavorativa alle persone normali. Ma che cosa ha cambiato? Allora, io ringrazio Fausto. Fausto, secondo me, pone un tema che mi colpisce molto, a dirvi la verità, e di quale io sono convinto, a prescindere da questi sondaggi che non mi stupiscono. Non mi stupisce neanche che il vasto eco di fondo che viene dalle vostre telefonate, come dai sondaggi di Repubblica, come dai sondaggi di altri giornali, è quello di un sospiro di sollievo rispetto alla fine di quella lunga cupa pagliacciata di fine regime delle donnine e di una testa persa tra le nuvole negli affari personali e del dileggio internazionale che feriva chiunque avesse una certa idea dell'Italia e soprattutto della totale incomprensione del meccanismo che esponeva l'Italia ad essere detonatore dell'euro, ed era un problema oggettivo di un paese che da 15 anni cresce meno degli altri, un problema che ha debito pubblico più elevato ed ha già elevatissima spesa pubblica e pressione fiscale, quindi non ha molti margini per alzare ulteriormente le tasse. Ecco, rispetto a questo punto di fondo, quello che mi colpisce che gli italiani, per così dire, di fronte a questo sospiro di sollievo per il cambio di atmosfera, non percepiscano che in realtà la linea di questo governo che ristabilisce la credibilità internazionale e ridà questo respiro di fondo di più serietà, però è la stessa linea di sempre, gli ultimi 20 anni dell'Italia alle corde: alzare le tasse rispetto a una spesa corrente che non scende. A questi livelli di pressione fiscale e a quelli ulteriori a cui arriveremo col fatto che oramai alziamo contemporaneamente l'imposizione diretta, l'imposizione contributiva, l'imposizione indiretta e ci inventiamo le patrimoniali al contempo per massimizzare le entrate dello Stato, il paese crescerà ancora meno e andrà in asfissia. Viva la serietà e la credibilità internazionale, la serietà sulla scena interna, ma il fatto che questa faccenda sia la stessa delle manovre del governo Amato, del modo con cui Prodi ci ha portato nell'euro, il modo in cui la sinistra ci ha tirato via dalle corde quando eravamo sospettati di essere indisciplinati dell'euro con Visco e Padoschioppa, ma lo stesso modo in cui Tremonti ci ha fatto Italia quando siamo finiti nei guai e sulle corde con il centrodestra al governo, e i risultati di tutto questo li abbiamo già visti e dovrebbero farci riflettere. Ma questo però non si deve a Monti, non è colpa sua del suo governo, ci vuole qualcuno che capisca che su questo bisogna essere capace di spiegare e avere il consenso degli italiani per essere liberali davvero e dire che bisogna fare come gli altri grandi paesi che sono stati capaci di tagliare molti punti di PIL di spesa corrente, non per investimenti ma corrente, e di tasse per ridare margini alla crescita. Questo significa inimicarsi altri milioni di italiani che invece vivono nelle pieghe e al riparo di un paese inefficiente perché ad alta intermediazione pubblica, cioè dove tantissime, estesissime sono le aree in cui prezzi amministrati dal pubblico, tariffe amministrate dal pubblico, finte gare decise dal pubblico sono fatte per milioni di italiani che hanno imprese finte, che stanno fuori dalla concorrenza e i cui dipendenti, i cui fornitori eccetera eccetera vivono in piena commissione di questo paese a bassa produttività e altissimo spreco pubblico. La colpa di Monti di questo no, ma di sicuro loro non indicano la strada alternativa. E mentre tornano i Doors continuiamo a sentire le vostre opinioni intorno a Monti, una propria lista, le elezioni, un suo partito rispetto alla vecchia offerta politica, se vi ha deluso o meno. Io credo contemporaneamente che per liberali veri convinti per l'esame comparato della vecchia storiella dei guardadighe olandesi sia il caso di fare il partito contro i guardadighe olandesi. Qual è la storia dei guardadighe olandesi? Beh, ricordatevi che nel 600, quando quando la lotta contro l'Atlantico per tenere l'acqua dell'oceano fuori dalla terra olandese era fatta con dighe dove non c'era cemento, non c'era ferro, si facevano con il legname, e quindi grandi nemici dell'Olanda non invasa dalle acque, che erano i roditori, i topi, e quindi il governo delle sette province diede a funzionari pubblici l'incarico di combattere i topi, e i funzionari pubblici dopo un po' capirono che chi lo faceva fare di ammazzare i topi prima degli accoppiamenti, bastava farli accoppiare, e poi per ogni coppia di roditori c'erano altre 15 che eternavano il proprio lavoro, lo rendevano naturalmente ancora più necessario, perché più roditori più acqua che entrava, e soprattutto aumentava i loro introiti. E questo è il ragionamento inevitabile del attore pubblico rispetto al suo monopolio economico, e per chi la pensa come me c'è bisogno di una sana offerta politica che dica adesso le spese corrente si abbatte e così le tasse. Non ci si può aspettare questo dai politici, dai vecchi partiti. Sandro da Milano, come la pensa? Prego Sandro. Sì. Buongiorno Giannino, intanto grazie per avermi dato la possibilità di esprimere il mio pensiero. Ma non ho alcun dubbio, voglio dire che il governo Monti ha sicuramente portato una ventata nuova, cioè gli ultimi 3 anni, per non andare molto lontano, sono stati assolutamente di una delusione totale. Ricorderei soltanto, voglio dire, due fatti in particolare che mi pare che siano assolutamente indicativi evidentemente del problema. Il primo, la votazione in Parlamento per quanto riguarda la credibilità, voglio dire che la signorina Ruby fosse effettivamente... effettivamente. Insomma, questo vuol dire, cioè un Parlamento serio, voglio dire, che voti in quei termini, voglio dire, mi pare che sia talmente cosificante per... L'altro punto che dobbiamo ricordare, io ahimè, voglio dire, per lavoro faccio il banchiere barra bancario da un po' di tempo, voglio dire, il primo di novembre il sottoscritto ha alzato il sedere dalla sedia, perché forse qualcuno non lo sa, ma noi in quella giornata perdemmo il 7% in borsa, e in quella giornata per la prima volta i tassi a breve dell'Italia erano diventati profondamente un multiplo dei tassi a lungo. E quando succedono queste cose in economia significa che in realtà c'è la riversione della curva, è un po' come l'elettrocardiogramma, no? Reverso, voglio dire, dice che siamo in presenza di... In quella stessa giornata, sempre per dire qual è la credibilità, il nostro amato ministro dell'economia era, voglio dire, impegnato insieme a Bossi, questo è cronaca, insieme a Bossi, voglio dire, alla sagra della zucca a Piacenza, e questo mi pare che sia effettivamente un'indicazione. Quindi avere gente di qualità che tenti di fare evidentemente il proprio mestiere, non c'è dubbio, sono d'accordo con lei. Possiamo immaginare di fare delle cose diverse, delle cose... Però intanto un profondo grazie a loro. Profondo grazie a loro. Questo non ho alcun dubbio. Io in questo momento, ripeto, visto che la politica non ha alcuna capacità effettivamente di rinnovarsi, perché mi scusi, ma gli attori che stanno attualmente sulla scena sono esattamente gli stessi, con le stesse identiche modalità. Non dimentichiamo Alfano che soltanto una settimana fa ha detto se si parla di televisione, se si parla di cosa non vado. Un po', voglio dire, se un segretario del partito di maggioranza relativa attuale, voglio dire, deve usare quei modi. Grazie anche a Sandro da Milano per la sua tagliente requisitoria contro la vecchia offerta politica, anche su questo la penso con lui. Fotograficamente Gianni da Roma lo ringrazio, diceva oltre ora delle prossime elezioni torneranno i soliti a rubare quello che Monti è riuscito a salvare. Andrea da Milano che diceva ok, con sondaggio di Repubblica non abbiamo grandi alternative in questo momento. Io saluto a tutti perché mi tagliano, non voglio essere sfumato come mi capita sempre. Appuntamento a domani.